ed è su quest'isola che ho trovato il paradiso. Mari blu da favola mi ha ridato il mio sorriso, perché qui ai tropici da mattina a sera è festa, tra balli, donne e alcolici che mi fanno girar la testa. Chi sei tu che ora stai qui con me? Fra tequila e sangria, neanche so il tuo nome qual è, ma mi fai compagnia. Alla vita dedico il mio brindisi, signorita, bevi insieme a me. Quanto è bella la tua verde isola, ma piove, di giorno e notte qui piove, e il cielo azzurro non è. Il mare e il cielo son blu, cielo e mare blu, che cosa vuole di più? Se la lasci sfuggire, è un affare, sai, questa vacanza da re. Spende la metà, se vuole dimenticare, candide, posto migliore non c'è, acqua limpide. Così parlò quel signore, torride, ed ora sono qui che grido al cielo sì, e corro al vento, finalmente libero. Fermo il tempo, l'attimo che va, mio è il mondo, mia è questa isola, ma piove, di giorno e notte qui piove, e il cielo azzurro non è. Proprio come un angelo sceso giù dal paradiso, la gioia di vivere hai riportato sul mio viso. E anche se tu non sei come lei e i suoi occhi non hai, io so che nel mio cuor prenderai il suo posto oramai. Signorita, dedichiamo un brindisi alla vita, questa rosa che va nutrita prima che sfiorisca tra le dita. Bene in alto, eleviamo i calici e brindiamo alla felicità e a quel sole che non splende mai perché qui piove, di giorno e notte qui piove, e il cielo azzurro non è.